Vissi d'arte, vissi. Rubrica di donne, vita e arte. Il titolo della puntata odierna è Autoritratto senza ritocchi. Marie Bashkirtseva. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto da Alessia. Benvenuti alla terza puntata della trasmissione Vissi d'arte, Vissi, l'appuntamento mensile con le arti visive e le artiste. La puntata di oggi è dedicata ad un'artista russa attiva in Francia nel XIX secolo, Marie Bashkirtseva. Marie nasce nel 1805-58 a Gavronsi, in Ucraina, in una ricchissima famiglia dell'aristocrazia russa. A causa dei dissapori coniugali dei suoi genitori, trascorre perennemente in viaggio la sua infanzia, a seguito della madre, divisa tra le due dimore familiari in Ucraina e a Nizza, in Francia. Di quel vorticoso periodo scriverà: «Io non ho avuto infanzia». Tuttavia, l'esistenza privilegiata e cosmopolita l'aiuta a padroneggiare correntemente il francese, l'inglese, l'italiano, oltre al russo, ben inteso, e a costruirsi una cultura ampia e solida, supportata da un'intelligenza brillante. Adolescente, Marie decide di intraprendere studi artistici professionali. Non si tratta di una decisione da darsi per scontata. All'epoca, se l'apprendimento del disegno e dell'acquerello con lo studio di uno strumento musicale e del ricamo era consuetudine vigente nell'apprendistato delle fanciulle dell'alta borghesia e dell'aristocrazia, non altrettanto poteva dirsi per un insegnamento di tipo accademico. L'accademia, infatti, segnava il passaggio dalla pratica dilettantistica alla pratica professionale, dal hobby al mestiere. Un margine pericolosissimo per le donne dei ceti sociali medio-alti, che in ogni campo potevano avvicinarsi alla professionalizzazione solo per stringenti necessità economiche e senza mai riuscire ad evitare un vago sentore di mancanza di rispettabilità. Marie, però, ha dalla sua, oltre alla condiscendenza familiare, un carattere e una personalità già molto consolidate, che le danno un peso importante all'interno delle dinamiche familiari. Dall'età di 15 anni tiene un diario, scritto in quel francese che era la vera lingua dell'aristocrazia russa. Questo diario, che terrà fino alla morte, testimonia la crescita di una personalità molto incentrata sul sé, sulle proprie velleità artistiche e letterarie, sull'ansia di un riconoscimento sociale che passi attraverso la conquista della fama artistica e non di un semplice successo mondano. Marie è pronta a lottare. Il 23 gennaio 1874, all'età di 16 anni, scrive nel suo diario: «Verrà un giorno in cui in ogni parte del mondo il mio nome risuonerà come un tuono». Nell'ottobre 1877 si stabilisce a Parigi con la madre per seguire un corso d'arte. Marie ha 19 anni. All'epoca, in Europa, la maggior parte delle accademie di belle arti pubbliche erano precluse alle allieve. Si pensava fosse sconveniente che giovani fanciulle si mescolassero ai loro colleghi di studio e ai professori, tutti uomini. Inoltre, la pratica dello studio del nudo era considerata scandalosa e assolutamente non adatta all'innocenza delle suddette fanciulle. Ciò a cui le giovani studenti d'arte potevano ambire era entrare in una delle rare accademie private o in uno degli studi d'artista che ammettevano allievi donne, e che non erano molti. Qui potevano studiare in gruppi rigorosamente femminili e avvicinarsi alla pratica del nudo attraverso l'osservazione di corpi femminili, di corpi infantili, di corpi di uomini anziani e di gesti classici. Il tutto naturalmente sotto lo sguardo vigile di istitutrici e genitori, cui era permesso di assistere alle lezioni controllandone la moralità e soprattutto i centimetri di pelle offerti alla vista da modelle e modelli. A Parigi due erano le accademie private più importanti che ammettevano donne: l'Académie Colarossi e l'Académie Julien. It doesn't hurt. La famiglia Bashkirtsev sceglie l'Académie Julien, fondata nel 1868 e tuttora esistente, che impiega come docenti buoni nomi della pittura francese ed internazionale e che negli anni avrà celebri allievi. In questo gruppo di studio internazionale, eterogeneo e molto vivace, Marie arriva armata della sua bellezza, dei suoi abiti elegantissimi e dei suoi materiali da lavoro di pregio. Un album di schizzi e dediche appartenuto a Madame Géraldy, allieva dell'Accademia, presenta alcune caricature di mano anonima che ci mostrano Marie Bashkirtsev al lavoro, avvolta in vesti voluminose e fasciata da un bustino strettissimo che mette in evidenza il suo vitino di Vespa. Sappiamo anche che Marie si presenta a lezione avvolta in pellicce e sete, accompagnata dalla sua cameriera personale in vesti di chaperon e dal suo amato barboncino Pincio. Non sorprende dunque che la incontri, grazie alle sue doti artistiche, il favore dei professori e di molte compagne di corso, ma che si faccia anche molte nemiche, che la chiamano la russa. Nemiche tra cui spicca Louise Catherine Breslau, perché di lei Marie scriverà nel suo diario: «Sono contenta di aver trovato una rivale alla mia altezza. Le altre mi fanno addormentare». Louise Catherine Breslau è di origine svizzera. Arriva a Parigi nel 1875 per studiare arte alla Julien e vi resterà fino al 1881. Conoscerà poi un notevole successo come ritrattista e pittrice di scene di interni e di intimità femminile, di cui è spesso protagonista con la compagna di una vita, Madeleine Zillard, conosciuta proprio nelle aule dell'Académie Julien. Tra Marie e Catherine, talentuose compagne di studio, scoccano scintille, non amorose, ma di rivalità. Al contrario di Marie, la Breslau deve lottare contro la povertà causata dall'essere rimasta orfana. I suoi studi sono il frutto di una vita di disciplina e di risparmio, e le caricature rimaste di lei nell'album di Madame Giraldi la mostrano con le spalle serrate, in atteggiamento di difesa, e il viso perennemente corrucciato. Tuttavia le due hanno in comune uno straordinario talento che conosce precoci successi, riconosciuti dal pubblico e dai critici che ne giudicano i risultati al Salon. Dei pensieri di Breslau su Bashkirtseva in realtà sappiamo poco. Nelle poche pagine manoscritte che ci sono di lei rimaste, la rivale non viene quasi nominata e la biografia che la Zillard dedicò alla sua compagna è abbastanza sobria in merito. Sono le caricature, invece, che segue la Breslau nell'album Giraldi ad essere assai impietose nei confronti della collega russa e rivelatrici di una tensione tra le due. Quanto a Bashkirtseva, nei diari sembra al contrario addirittura ossessionata dalla Breslau, in un gioco di specchi e osservazioni reciproche che meriterebbe ulteriori indagini. La vita di Marie non è però esclusivamente assorbita dallo studio e dalle rivalità accademiche. Infatti la madre, come tutte le madri dell'epoca, è intensamente impegnata nella caccia al marito ideale per la figlia bella e talentuosa. Marie di giorno studia e dipinge, ma la sera è impegnata in una girandola vorticosa di cene, feste e concerti. Ora, per comprendere come Marie si distribuisca in tutti questi ambiti, lo strumento principe è il suo diario. Ed è arrivato il momento di approfondire la conoscenza di una delle opere che renderà celebre e amatissima Marie Bashkirtseva dopo la sua morte, lo splendido Journal, che in alcune migliaia di pagine racconta la sorprendente evoluzione culturale ed esistenziale di una normale ragazza per bene. Siete in ascolto di Vissi d'Arte, Vissi, rubrica dedicata alle donne artiste e incentrata questa sera sull'artista russa Marie Bashkirtseva. Come abbiamo detto, Marie comincia a scrivere il suo diario all'età di 15 anni, l'11 gennaio 1873. L'ultima pagina la scriverà pochi giorni prima della morte, il 20 ottobre del 1884, all'età di 23 anni. Fin dall'adolescenza, infatti, Marie è malata di tubercolosi e non ha mai avuto dubbi sull'essere destinata ad una breve, brevissima vita. Il diario è nei primi volumi essenzialmente incentrato sulla registrazione minuziosa di fatti e pensieri anche di poca importanza. Come se Marie fosse consapevole di non essere destinata ad una lunga vita, ella ritiene necessario registrare ogni singolo evento la riguardi. Tuttavia, man mano che avanzano gli anni, man mano che si fa strada nella sua coscienza una vocazione artistica indiscutibile e la volontà e la necessità di una seria carriera professionale, le sue pagine abbandonano la cronaca quotidiana per divenire luogo di riflessione, di esplorazione del sé, di sperimentazione esistenziale. In queste pagine fondamentali Marie comincia a riflettere sul suo destino di donna, su ciò che comporta in merito alla sua vocazione artistica, su come l'essere donna intralci la sua vita e il suo operare, ponendola di fronte ai limiti imposti dalla società al suo genere. La sua scrittura, appassionata, vivacissima, sincera e spregiudicata, ne fanno quasi un'opera nell'opera della Bashkirtseva. Un capolavoro di scrittura autobiografica che incappa però, come altri del genere, nella censura. Per comprendere le ragioni di questa censura ci si può portare, come ho fatto io, a Parigi, cimitero di Passy, nel 16° arrondissement. È un luogo caro a noi lesbiche necrofile, poiché custodisce tombe come quelle di Nathalie Clifford Barney o di René Vivien, ma è anche il cimitero in cui è sepolta la grande artista impressionista Berthe Morisot. Qui la famiglia di Marie Bashkirtseva eresse un vero e proprio monumento alla 23enne appena scomparsa. Una gigantesca, sontuosa cappella in stile bizantino che al suo interno ricompone e protegge gli oggetti che popolavano lo studio dell'artista. Lo stesso in cui si fa fotografare la madre avvolta in gramaglie sontuose, ostentatrici di un dolore quasi morboso. La passionalità, la spregiudicatezza di Marie appaiono quasi mummificate da una ricomposizione agiografica. Ebbene, lo stesso trattamento verrà applicato al diario. Infatti, alla morte di Marie, il suo valore letterario viene subito compreso e va dato atto alla famiglia di questo. Ma il suo valore reale, quello di incredibile documento di una coscienza femminile e femminista al suo nascere e divampare, viene completamente censurato. Il diario sarà pubblicato a partire dal 1887, tagliando via ogni riferimento che esuli dalla rappresentazione agiografica ad una sorta di santino della pittura, tutto diviso tra amore dell'arte e paura di una morte che si sa imminente. Un autoritratto pesantemente ritoccato post mortem, che va pulito di ogni aggiunta o velatura per rivelare l'originario splendore. The mountains and disappears. Moss revealed springs up with life. Lime green, bracken orange, ruby red, bright yellow. See is you. Ciò nonostante, il successo del diario di Marie Bashkirtseva fu eccezionale e si protrasse a lungo nel tempo. Finalmente, alla fine del XX secolo caddero le restrizioni alla consultazione poste dalla famiglia e gli studiosi hanno potuto accedere agli originali, integralmente pubblicati a partire dal 1995 in 16 tomi. Ancora una volta va dato atto alla famiglia di non aver distrutto le pagine incriminate, ma di averle semplicemente nascoste ai posteri, un'accortezza che non tutti i diari di donne hanno ricevuto. Mi riferisco ad esempio ai diari agli scritti di Antonia Pozzi, giovane poeta morta suicida nel 1938 all'età di 26 anni, che vennero in parte distrutti e in parte alterati dalla famiglia, lasciando agli studiosi un cimitero di brani e di pagine scoordinate. La censura applicata alle pagine del diario di Marie Bashkirtseva ricorda quella compiuta sul diario di Anne Frank, dal quale vennero espunte le pagine riguardanti i dubbi e le prime esperienze sensuali della giovanissima Anne, nonché il suo risentimento nei confronti della figura materna. Nelle pagine non censurate del suo diario, Marie, oltre a esprimere un certo affetto per il padre, che non viene praticamente mai nominato nella versione ufficiale, esprime invece la sua insofferenza e limiti imposti alla sua possibilità di compiere esperienze. Limiti di tutti i generi. Prima di tutto quelli posti all'esercizio artistico, limiti addirittura fisici, come quando scrive nel suo diario. Ciò che più desidero è la libertà di girare da sola, di sedermi alle Tuileries, di fermarmi a guardare negozi per gli artisti, di entrare nelle chiese e nei musei, di camminare nelle vecchie strade di notte. Senza questa libertà non si può diventare un vero artista. Questa libertà è la metà del talento e i tre quarti della felicità comune. Non possiamo dimenticare, infatti, che per esercitare liberamente la sua osservazione delle strade e dei luoghi della Ville Lumière, Marie è costretta ad attrezzare a studio la sua carrozza per poter osservare la città e i suoi abitanti al riparo del veicolo. Quando nel 1878 visita l'Académie des Beaux-Arts, a fronte dell'imponenza e del prestigio dell'istituzione a lei proibita, osserva sconsolata: «Ce n'è abbastanza per mettersi a piangere. Se mai lo potrò fare, fonderò un'accademia per le donne». Ma per quanto convinta dei propri talenti, Marie conserva un fondo di insicurezza che la malattia non alleggerisce di certo. Nel 1877 scrive: «Ho 18 anni. È niente e troppo. A 18 anni avrei dovuto cominciare ad essere celebre». Certamente Marie è lacerata tra la sua vocazione artistica e i doveri mondani cui l'obbliga la classe sociale, la famiglia, la sua stessa fame di vita. L'Académie Julien rappresenta in questo senso una sorta di oasi in cui riparare lontano da troppe tensioni. Scrive il 6 ottobre 1877. «Nell'atelier tutto scompare. Non si ha né un nome né una famiglia. Non si è più la figlia della propria madre, si è se stessi, si è un individuo e davanti a sé la propria arte e niente altro. Ci si sente così contente, così libere, così fiere. Eccomi qui dunque, divenuta ciò che volevo essere da molto tempo. L'ho desiderato così a lungo che ancora non posso crederci». L'Accademia è dunque il luogo in cui Marie si sottrae alle aspettative legate al suo genere, a partire da quelle matrimoniali. Occorre ammettere che nel leggere le pagine originali del diario si comprende, per quanto ovviamente non si giustifichi, l'azione censuratrice della famiglia. Una ragazza così giovane che esprime idee a dir poco disinvolte. Nel 1875, ad esempio, scrive, all'età di 17 anni, «Un uomo fa ciò che vuole, fa tutto, poi si sposa e si trova la cosa naturale. Una donna che osi non fare tutto, ma un niente, viene lapidata. Perché questo? Mi si dirà che sono una ragazzina e non capisco niente. Mi si dirà che ciò che fa un uomo, beh, è ciò che fa una donna. Io capisco questo, specie se ci sono dei bambini. Ma a volte bambini non ce ne sono e si grida ugualmente allo scandalo. L'uomo è egoista, dissipa se stesso in mille avventure, poi prende una donna tutta intera e vuole che ella sia contenta dei suoi stracci, che ella ami la sua carcassa usata, il suo carattere inacidito, il suo corpo affaticato. Non critico i piaceri della carne, ma almeno che si faccia come col cibo, che si mangi quando si ha fame». Aggiunge poi, a proposito della cosiddetta doppia morale, «Ci sono uomini che non sopportano che le proprie mogli abbiano un corteggiatore, ma sono così pronti a parlare degli amanti delle loro amanti». Ciò che colpisce è la lucidità e l'atteggiamento disincantato fino a un livello che, agli occhi dei contemporanei non poteva non essere giudicato cinismo. Nel 1876, a proposito di un corteggiatore che l'aveva baciata, riflette: «Vorrei solamente capire se mi sono talmente lasciata andare perché amo quest'uomo, oppure se qualsiasi imbecille mi parlasse d'amore potrebbe ottenere altrettanto da me. Questo mi sembra più verosimile». Il matrimonio anche è visto come un obbligo, e a proposito di un corteggiatore che ella sente di desiderare carnalmente, altro concetto che certo confligge con l'immagine corrente della fanciulla casta e innocente, corteggiatore dunque desiderato, ma che ella non stima abbastanza da poter sposare, non esita a scrivere che potrebbe sposarsi con qualcun altro, in modo da poterne poi fare il proprio amante. Con un certo divertimento, scrive nel 1877, «Non ho della donna che l'involucro, e questo involucro è diabolicamente femminile, quanto al resto è diabolicamente un'altra cosa». Dunque Marie studia pittura ed espone al Salon. Inoltre tiene un diario scandalosamente franco sulle questioni relative alla moralità e al ruolo sociale e artistico delle donne. Ma non sono le sole cose insolite che la fa. Nel 1880, infatti, pagando una quota mensile di 25 franchi, aderisce alla Lega Droit des Femmes, un agguerrito gruppo di suffragette. L'avvenimento è tale che persino nella famiglia che la vizia e l'adora incontra notevoli resistenze. Ma la cosa che più la stupisce è constatare la disapprovazione delle sue compagne di studio, cui evidentemente parla della cosa. Ne inferisce che parlano per ignoranza o per conformismo. Al pari della pratica professionale della pittura, l'attività politica femminista rivela a Marie un nuovo mondo in cui si lancia con gioia. Nel giro di poco tempo diventa azionista del giornale suffragista La Citoyenne, e comincia a scrivere articoli appassionati, in cui riflette ad esempio sul rapporto difficile e ambiguo tra donne e lavoro, tra donne e istruzione, con una lucidità e una consapevolezza che si nutrono della sua esperienza diretta. Contemporaneamente, la sua pittura comincia a conoscere il successo e il quadro L'incontro viene premiato al Salon del 1884. Ma quello che per un'altra donna sarebbe stato l'inizio di una nuova vita, per Marie Bashirtseva è già il culmine, dopo il quale non può che iniziare la discesa. Infatti, le sue condizioni di salute già precarie si aggravano all'improvviso. Muore il 31 ottobre del 1884. Pochi anni prima aveva scritto: «La vita è breve, talmente breve, che non vale la pena di fare se non le cose che ci piacciono». We'll be right back. Anche questa sera siamo giunti alla fine del nostro incontro. Desidero ringraziare Nancy per il sostegno tecnico e musicale. Abbiamo ascoltato brani di Kate Bush, Warpaint, Bjork, Joe Hamilton. Quanto a noi, ci troveremo di nuovo qui a Vissi d'Arte, Vissi, il 19 febbraio alle 20:15 per una nuova puntata dedicata all'artista futurista Benedetta K. Marinetti. Un saluto da Alessia e buona serata.